Ho pensato che bisogna avere il coraggio di scegliersi la propria vita. Di non lasciare che le cose ci passino addosso e ci travolgano. Che fare delle scelte è sempre meglio che non farle. Che capire cosa serve e cosa no è un privilegio che bisogna ritagliarsi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. E sono le 16:08, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Io non ho niente contro i Viet Cong. Loro non mi hanno mai chiamato negro. Questa è stata la frase con cui Muhammad Ali si rifiutò di partire per il Vietnam. Un'altra sua frase celebre rispetto a quella guerra fu la risposta che diede a una domanda. La domanda era: Ali, sai dov'è il Vietnam? E lui rispose: sì, è in TV. Quella non fu solo una forma di diserzione da una guerra che lui non voleva combattere. Quella fu forse una delle più grandi rinunce della storia dello sport. Dal momento che per via di quella risposta lui dovette rinunciare per 3 anni a fare la cosa che gli riusciva meglio: combattere su un ring. Le commissioni pugilistiche statunitensi gli tolsero la licenza e lui, che si trovava nella fase ascendente anche per età di qualsiasi atleta, dovette rinunciare a fare la cosa che più desiderava fare. Mi è venuto in mente questo episodio della vita di un grande personaggio come Muhammad Ali ieri, pensando alle rinunce della vita. Ieri ho preso una decisione che non è come quella del più grande pugile di sempre, ma è comunque una rinuncia. Una rinuncia è un no secco che diciamo a qualcuno, a qualcosa, ma soprattutto a noi stessi. È una piega che facciamo prendere di proposito alla nostra vita. In valore assoluto, ogni volta che noi scegliamo qualcosa, rinunciamo a qualcos'altro, no? Sempre. Se mangiamo il pollo, rinunciamo al pesce. Se andiamo al mare, rinunciamo alla montagna. Se scegliamo una donna, rinunciamo a tutte le altre. Di solito però ce n'è una. Di solito c'è una rinuncia che, quando ci pensiamo, la ricordiamo come la rinuncia della nostra vita. Quella che ha svoltato il nostro quotidiano, che l'ha fatto virare da una parte o dall'altra. Quella che ci ha fatto andare a vivere in un posto piuttosto che in un altro. Che ci ha messo a lavorare in un posto piuttosto che in un altro. Che ci ha fatto essere quella persona lì e nessun'altra. Se avete fatto una rinuncia importante, che vi ha reso magari non migliori, non peggiori, semplicemente diversi, io sono qui. E il mio numero è sempre, cioè il numero della radio è sempre quello, è 800240024 per telefonare in diretta, oppure 349-238-6666. Sono arrivati dei messaggi a questo proposito, adesso ve li leggerò, ma in generale anche quello che è accaduto ieri quando ho preso questa scelta. Ho sempre la sensazione che le rinunce abbiano a che fare in qualche modo con i propri desideri, col fatto che a un certo punto uno debba abdicare ai propri sogni per fare una scelta. Magari non è così, magari non è sempre così, però ho la sensazione che la felicità passi per quel bivio lì. 800240024 349-238-6666. Emilio, ad esempio, mi ha scritto: io ho rinunciato ad andare a giocare a calcio per una squadra di Serie C perché mio padre voleva che mi laureassi. Naturalmente gli allenamenti combaciavano alle perfezioni con i corsi. Dopo un anno ho lasciato l'università. Adesso non so che cosa accadrà. Elisabetta mi ha scritto anche lei: l'ultimo anno di scuola superiore lavoravo alla RAI di Milano come figurante e ballerina di fila. Qualcuno mi notò e mi proposero di trasferirmi a Roma. Avrei avuto più possibilità, questo è virgolettato, quindi mi immagino la faccia dell'Aido che viene a dirle: guarda, avresti un sacco di possibilità a Roma. Io in realtà lo facevo solo per guadagnare qualche soldino, non volevo fare una professione, ma l'idea di andare a Roma mi piaceva tantissimo. Invece ci ho ripensato e alla fine sono rimasta, e secondo me è stato meglio così. Anche Elisabetta. Federica: neo laureata, neo sposa, rimango incinta e rinuncio a un super lavoro per una multinazionale americana. Ora mia figlia ha 13 mesi, ho fatto altri lavoretti, ma tutti i colloqui vogliono l'esperienza. Ho rinunciato al mio 110 110 110 cioè 110 110esimi, si dice così, 110 e basta. Ho guadagnato una figlia splendida. Poi mi scrive: quando si imbocca una strada rinuncia a qualcosa ma ne guadagni altre. questo mi sembra un pochettino una consolazione, Federica, però ognuno se la gira come crede. Un altro che mi ha mandato Tommaso: ho rinunciato a un lavoro molto interessante all'estero per finire l'università. Ma perché, Tommaso? Ma non serve. Però non ho alcun rammarico, perché se non avessi fatto questa scelta non avrei conosciuto mia moglie, non avrei avuto i miei bimbi, la vera gioia della mia vita. E chi lo sa, magari invece, Tommaso, se fossi partito avresti trovato un'altra moglie, avresti trovato altri figli, altre gioie della tua vita. Stop con il cinismo di oggi. 800240024. Se avete fatto una scelta, se l'avete fatta di recente, se magari aveva a che fare con i vostri desideri oppure no, però vi ha reso una persona diversa, io sono qui. 800240024. Io una scelta l'ho fatta ieri, e secondo me qualcuno all'ascolto ne sarà anche molto felice. Sono in un camerino, mi sto mettendo del fondotinta chiaro. Ascolto lo spettacolo dall'interfono in attesa del mio turno. Sono stranamente molto rilassato. Mancherà ancora mezz'ora prima che io debba entrare in scena, ma sono pronto. Mi infilo il costume e improvvisamente sento una voce chiamare. Trofimov. Qualcuno chiama il nome del mio personaggio. Trofimov, sento dire, e ancora ripetere Trofimov. Io schizzo fuori dal camerino, prendo le scale che salgono sul palco. Tocca a me, merda, tocca a me, sto facendo un vuoto di scena. Corro sulla prima rampa di scale, sulla seconda, prendo la terza, ma ce n'erano solo due prima. Invece adesso sono 3, 4, 5, 6 e non finiscono. E Trofimov, sento chiamare. Finalmente sbuco sul palco, dove gli altri sono immobili e mi aspettano. Io ho il fiatone, sono sudato, sono in piena luce e sono scalzo. Gli attori mi guardano, il pubblico mi guarda e aspettano. Tutti aspettano me e la mia battuta, quella che dovrei dire ma che non ricordo più. Io avrei dovuto entrare e dire qualcosa, ma non so cosa. E la gente aspetta, io non mi ricordo, e allora faccio la prima cosa che mi viene in mente di fare. Prendo una sedia e mi siedo su una delle sedie che si trovano sul palco e chiudo gli occhi e cerco di concentrarmi sulla battuta che devo dire. Ma più ci penso e più un muro bianco mi appare nella testa. Una parete senza un segno, senza una scritta, un appiglio su cui arrampicarsi. Sento una goccia di sudore che mi scende lungo la schiena. Apro gli occhi e non sono più in teatro, no? Sono nell'aula al primo piano del liceo Antonelli di Novara e davanti a me ho 8 professori. 7 di loro non li ho mai visti. Una invece è la professoressa Gambaro. Lei è il membro interno della commissione e questo è il mio esame di maturità. Lei mi guarda con gli occhi spalancati, come di chi cerca di comunicare qualcosa senza farsi notare dagli altri, che è un metodo stupido, non l'ho mai capito, perché se uno rimane 5 minuti con gli occhi spalancati, è ovvio che gli altri se ne accorgeranno. Io non sono agitato. Ho studiato fisica alla perfezione e l'inglese lo parlo piuttosto bene, e queste sono le due materie che io ho preparato e che ho portato. È tutto l'anno che le studio. Però c'è qualcosa che non va. Tutti mi guardano come spazientiti, compresa la Gambaro, che adesso si è alzata in piedi e sta agitando le braccia come a dire «Dai, su, caccia!». E io allora attacco con il secondo principio della termodinamica. È impossibile realizzare una trasformazione in cui unico risultato sia quello di trasferire calore da un corpo più freddo a uno più caldo. Sono fiero di me perché lo so benissimo. E sono anche pronto per partire con il secondo enunciato che spiega questo principio, quando una professoressa, una di quelle con la faccia da professoressa, avete presente, con il mento aguzzo, e le labbra sempre arricciate all'insù ad esprimere un po' di disprezzo, mi guarda e mi dice: non siamo qui per parlare di fisica. Lei non ci ha ancora detto chi era l'autore del Giardino dei Ciliegi. E lì mi sono svegliato urlando: è Chekhov! Natalia, sono balzato nel letto, io ero avvolto nelle coperte ed ero completamente sudato. Lei mi ha preso la testa tra le mani e mi ha tranquillizzato, dicendomi che era solo un brutto sogno. Io mi sono calmato, mi sono alzato e sono andato a farmi una doccia. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Insomma, ho cambiato idea. Dopo l'incubo dell'altra notte ho capito un po' di cose. Ho fatto colazione in casa, che è una cosa che di solito non faccio, perché prendo un cappuccino al bar. Invece, bevendomi un tè come quando ero a casa con l'influenza malato, ho capito delle cose, l'ho sorseggiato con calma, a differenza di come faccio di solito. Mandavo giù una sorsata alla volta. e sentivo che passava dalla lingua alla gola e piano piano mi scaldava tutta la pancia. E più il calore si allargava, più sentivo i muscoli che si rilassavano. E più quelli si rilassavano, più capivo che stavo sbagliando. Che il teatro, quella roba lì, era stata un'altra vita. Che quella cosa del palco, della recitazione, apparteneva ad una parte di me che non era morta, ma ormai era lontana. Come un amico che magari vive a pochi chilometri da te, ma che ormai non vedi da anni. E quando lo incontri fai finta di essere in confidenza con lui, sì, ma non lo sai per niente. Ecco, la mia vita è passata ed è come un vecchio amico, diventato un estraneo. Penso che tutti vorrebbero provare a vivere tante vite diverse. Penso che qualcuno probabilmente l'ha pure fatto, volontariamente, forse no. Penso che fare la stessa identica cosa per tutta la vita ti apra a due possibilità. La prima, la cosa più noiosa della Terra. Una sorta di linea sempre dritta, senza picchi né avvallamenti, che prima ti stordisce, poi ti tramortisce e alla fine ti dà un colpo di grazia senza che tu nemmeno te ne accorga. La seconda invece è quella di sfruttare quella ripetitività, come un mantra. Come se nel rifare si nascondesse una risposta a non so quale domanda. Una volta ho letto da qualche parte che nella ripetizione c'è una qualche verità. Non so esattamente cosa significhi, però mi sembra un bel concetto. Insomma, mentre bevevo quel tè, ho pensato che vivere due o tre vite non è possibile. A meno di sentirsi scissi. A meno di pagarne le conseguenze. A meno di non godersene nemmeno una. Ho pensato che bisogna avere il coraggio di scegliersi la propria vita. Di non lasciare che le cose ci passino addosso e ci travolgano. Che fare delle scelte è sempre meglio che non farle. Che capire cosa serve e cosa no è un privilegio che bisogna ritagliarsi. Fare solo le cose che ci piacciono. Non quelle che pensiamo siano belle, non quelle di cui possiamo raccontare agli altri, non quelle che conquistano qualcuno, quelle che vanno fatte così, perché si fa così, che altrimenti si fa brutta figura, altrimenti si perdono punti. Fare solo le cose che ci piacciono è una regola che dovrebbe essere inserita su tutte le tavole di tutti i comandamenti. Quindi ho finito il mio tè, ho preso il telefono, ho chiamato Antonio e ha risposto alla sua segreteria. Servizi di segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Pronto, ciao Antonio, sono Matteo. Senti, io mi devo scusare con te, però non posso più farlo lo spettacolo. Mi rendo conto che ti metterò in difficoltà e ti creerò un problema. So che non posso fare una cosa che non mi va. Lo so che ti ho detto il contrario, però la realtà è che non andava a me, andava ad un vecchio amico che ogni tanto sento ancora, però ormai è un estraneo e sinceramente farlo per lui non mi sembra proprio il caso. Scusa ancora. Se non fossimo noi due, saremmo altri due, felici come valigia caduta da un aereo di linea, felici come animali d'appartamento. Vivevo felice e da solo in un bellissimo appartamento al piano terra. Ad un certo punto ho trovato la ragazza, l'ho lasciata incinta, che credo voglia dire l'ho messa incinta, e mi sono sposato. C'è qualcosa di perverso però nella definizione l'ho lasciata incinta. Vabbè, l'ho messa incinta e mi sono sposato. Ho cambiato città e anche vita. Ora ho un bellissimo bambino ed una moglie splendida. E chi avrebbe immaginato tanta gioia quando dovetti prendere la decisione? A proposito, dopo qualche mese che lasciai il mio bel appartamentino al piano terra, il torrente di vicino esondò e il mio appartamento venne sommerso da circa un metro d'acqua. Questo più che altro direi una congiuntura astrale più che una scelta. Federico, la mia vera rinuncia verrà quest'anno. Seguire per amore una persona e starle vicino a qualsiasi scelta vorrà intraprendere, così come lei ha fatto con me. Non è riconoscenza, un amore sulla riconoscenza non vive, questa era tra parentesi, ma un investimento per il nostro futuro insieme. Bravo Federico! Al 349-238-6666, io ho soffocato nel nascere una promettente carriera da insegnante in Senegal per migrare qui in Italia. Ora faccio il volantinatore. Sapessi quanto mi pento. Ho rinunciato a tornare in Spagna per rimanere in Italia. Sono passati 17 anni e la mia vita italiana adesso mi piace. E poi mi hanno scritto: dopo 9 anni di insegnamento mi sono dato all'agricoltura. Davide, pronto Davide? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno anche a te. Senti, quando l'hai fatta questa scelta? Allora, la scelta definitiva l'ho fatta a dicembre dell'anno scorso, dicembre 2010. Quindi è da Cioè, sono 2 mesi che fai l'agricoltore? No, allora, perché prima lo facevo il pomeriggio, sai, l'insegnante lavora solo la mattina, sì, ha i suoi vantaggi, e il pomeriggio facevo l'agricoltore. E a dicembre, durante insomma lo svolgimento dell'anno scolastico, ho deciso di cambiare. Senti, e eccomi qua. Che cosa insegnavi prima, Davide? Insegnavo meccanica e disegno. In che cos'era, un istituto tecnico? Professionale. Che faceva che cosa? Un istituto professionale per la meccanica. Ok. Semplicemente. E invece adesso che tipo di agricoltore sei, se esiste un tipo di agricoltore? Cioè, che cosa coltivi fondamentalmente? Seminiamo il mais, il frumento, le patate, i pomodori. Adesso a cosa stai lavorando adesso? In febbraio cosa accade nel mondo? In questo momento, adesso sono sceso dal trattore un attimo per parlare con te. Sei sul trattore? Sì. Senti, ma mi fai il piacere però, prima di salutarmi, di salire e di accendermelo, così mi fai sentire il rumore del trattore. Certamente. Allora, adesso sto arando la terra per preparare per le patate. Quindi sei in mezzo al campo in questo momento? Sì. Dove esattamente? Sono in provincia di Verona, nella bassa veronese. Senti, che cos'hai intorno? Non dirmi solo campi. No, ci sono tanti campi e qualche casa, c'è qualche casa lontano. Quindi però... Quindi tu ascolti la radio sul trattore, ovviamente. Eh sì, è la mia compagna preferita, la radio sul trattore. E credo che tu non sia l'unico, perché ci sono moltissimi agricoltori che ci ascoltano sul trattore. Senti, dimmi qual è stata, di questa rinuncia, che cosa ti manca dell'insegnamento, se c'è qualcosa che ti manca? Guarda, essere proprio sincero, quello che manca di più è il confronto con i colleghi. Ah. Quello che proprio mi manca, perché sai, il confronto intellettuale è sempre bello. Quello che non mi manca... Sì? I ragazzini. Quanti te li porteresti a lavorare i campi di quelli che avevi davanti in classe? Tutti, però tutti con la zappa. Senti Davide, dai, ce la fai a farmi sentire il rumore del trattore? Certamente, proprio. Accensione. Si sente? Sì, come no, si sente come. Davide, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata. Buona giornata. Ciao Davide, grazie. Adesso direi, a proposito di agricoltori e di braccia rubate all'agricoltura, la borsa e poi Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto qui. Nella foto di oggi siamo all'aperto, è una bella giornata, c'è tanto verde intorno e siamo in un cimitero. C'è un muretto a secco, direi, che fa da perimetro a tutto il cimitero. Non è un cimitero qualunque, è un cimitero inglese. Si riconosce perché ci sono le lapidi bianche, sono tutte in fila, come se fosse un domino. Tommaso Zambon, ho 38 anni. Sull'altopiano d'Asiago non è raro incontrare le tracce dei feroci combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Puoi trovare tanti piccoli cimiteri di guerra dove non c'è distinzione tra ufficiali e soldati semplici, come a voler essere un monito del fatto che la morte è uguale per tutti. Località Boscon, Asiago, io sono qui. Massimiliano mi scrive: dal piano bar ai villaggi in giro per il mondo e poi ancora piano bar, sole, mare e donne. Massimiliano, detta così sembra... Poi a 27 anni mi sono fermato e ho rinunciato a tutto per amore. Volevo una famiglia ed ero certo di aver trovato la persona giusta. Da quasi 8 anni sono sposato, vivo in una città che non è la mia di origine, ho 2 bambini meravigliose, vendo case, sono felice, io sono qui. Non hai figli, vero? No. Quando ad una persona nascono dei figli, non vorrebbe avere figli diversi? Ma io non dicevo che uno vorrebbe avere figli diversi. Perché nella vita ha dovuto rinunciare a qualcosa. Io potevo fare tante altre cose al posto di quelle che ho fatto, ma con le scelte che ho preso sono nate proprio quelle figlie lì. Nessun pentimento, perché non c'è niente di meglio. Ciao. Partire o restare, ho rinunciato alla baraccopoli del Sud America per occuparmi di quella della mia città. In fondo non cambia di molto. No, direi che se è una baraccopoli, di baraccopoli si tratta comunque. Andiamo a Roma da Belinda. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Belinda, ma è il tuo vero nome? Sì, vero, verissimo. Non è un nome d'arte, quindi? No, sembra un nome d'arte, ma invece è il mio nome di battesimo. E da dove arriva questo nome? Mia madre lesse un libro, una cosa del genere, poi c'era anche Belinda il mostro e cose del genere. Ero un mostro quando sono nata, però. Ma Belinda, ma scusami, Belinda. Ma tu sei un'attrice, sei una doppiatrice, hai una voce profondissima. No, me lo dicono tutti, però sono una maestra. Sei una maestra, raccontami della tua rinuncia. Allora, la mia rinuncia è stata più di 20 anni fa, lavoravo nelle assicurazioni, ero una impiegata, ma guadagnavo molto molto bene, perché le assicurazioni 20 anni fa c'erano anche 16 stipendi. In che senso 16 stipendi? Cioè 16 mensilità? 16 mensilità. Ma si parla però degli anni 80? Sì, anni 80. Okay, anni okay. 80 prendevamo lo stipendio normale, poi la tredicesima, quindi 13, mm-hmm. un altro stipendio a giugno 14, un altro a settembre 15, sì, insomma, un altro a dicembre 16. Ma non mi fai nervosire così, Belinda, vai anche avanti. No, io non mi posso nervosire perché io sono rinunciato. Cioè, hai rinunciato, per fare che io cosa? Io ho rinunciato perché avevo ho due figli che erano sì. piccoli, e all'epoca avevano 5-7 anni, però io avevo la babysitter, dovevo lasciarli, non potevo accompagnarli a scuola, mi mancava molto la presenza, diciamo, dei figli nella mia vita, e quindi ho detto basta, lascio il lavoro, mi hanno liquidato. E com'è finita? E ho lasciato perdere il lavoro senza percepire pensione, niente. Okay. E ho detto va bene, mi sono affidata al lavoro di mio marito, e che potevo, diciamo, farlo, sì. non è che sono andata a morire di fame. Lo immagino. Adesso fai qualcos'altro, Belinda? Questo lavoro, e sono stata premiata, nel senso che dopo un po' di anni hanno tolto il limite di età per i concorsi magistrali, e l'ho vinto, sicura di vincerlo. Io sono andata a fare il concorso dicendo tanto lo vinco. Belinda, l'ho vinto, e insegno da 15 anni e sono felice. Sei una maestra, quindi? Una maestra elementare. Volevo fare prima di tutto i complimenti a Radio 24, e una cosa a parte: i miei bambini, la mia classe, ascolta quasi tutti i pomeriggi, diciamo, che ci sono io, che siamo a tempo pieno, ascoltano Destini Incrociati. Benissimo. Allora... E sono pazzi per quella trasmissione, difatti devo stare per non fargliela sentire certe volte, perché non riguarda, diciamo, il tema che può servire a dei bambini. Belinda, ti ringrazio molto. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Livorno da Rosario, che Livorno ci dà sempre grandi soddisfazioni. Pronto, Rosario? Sì, buonasera. Ma tu non sei livornese, però? No, io sono di origine siciliana. Ok, strano, proprio dal però nome sono avrei nato detto Bolzano. Livorno, provincia di Livorno. Ah, perfetto. Raccontami della tua rinuncia invece, Rosario. Beh, io nell'82 facevo il bagnino a Livorno e ho conosciuto una ragazza, sono andato in Belgio. Dopo questa storia finita, diciamo così, in breve tempo, dopo un paio di mesi sono andato a Londra, pensando di vivere a Londra. Fatto sta che sotto le feste di Natale mio padre era stato ricoverato, e io ho pensato bene di tornare, perché mio padre era troppo più importante dei miei, diciamo. Da quanto tempo eri a Londra, Rosario? Ero a Londra da 15 giorni. Ah, da poco però. Ho stato 2 mesi e mezzo in Belgio, poi lì dovevo fermarmi perché avevo intenzione di fermarmi. E invece sei tornato per... a casa, sono felice di essere tornato. Che cosa fai adesso, Rosario, nella vita? Io sono un tecnico, riparo apparecchi industriali nella ristorazione, gli ospedali, sai, caserme, dove c'è le cucine industriali, quelle grandi. Ma che tipo di... cioè, ma tipo i forni... Sono riparatore. Ma fammi un esempio di una cosa che hai riparato oggi. Una cosa che hai riparato oggi, un frigorifero? Oggi ho messo mano su una svizzeratrice di un centro commerciale. Una svizzera? Ah, quelli che fanno gli hamburger? Sì, gli hamburger. Ok, cosa aveva la svizzeratrice? Aveva un pezzo spezzato, e per cui... poca roba, insomma. Rosario, ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie. A proposito di Londra, a 18 anni avevo l'opportunità di diventare manager in un famoso ristorante londinese. Per finire gli studi, ora a 30 anni lavoro alle Poste a Palermo. Andiamo da un'altra donna, andiamo da Lara a Treviso. Pronto, Lara? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, bene. Tu che cosa hai fatto? Sei tornata dalla Danimarca? Sì, io ero in Danimarca nel 2000. Sì. Mi trovavo là per studio e per lavoro anche, devo dire. Diciamo così, per fare un tirocinio e terminare la mia laurea. Tu che cosa studiavi? Studiavo biotecnologie. E quindi mi trovavo là in un laboratorio, quindi per fare ricerca. Ma scusami, tu avevi cominciato in Italia oppure avevi iniziato proprio là a studiare? No, ho cominciato in Italia. Cioè, quindi in Italia si studiano ancora le biotecnologie? Mi sembra una roba che ormai si fa solo all'estero, no? No, si studia ancora in Italia. Questa è una buona notizia, ad esempio, vedi? Decisamente. Solo che, come purtroppo, si andava preferenzialmente all'estero per poter certo. fare ricerca. Bene, la grande opportunità era, ok, resti qui, finito il tuo tirocinio, per altri 3 anni, o anche 4, insomma, fai una ricerca seria e poi se ne parlerà di tornare in Italia. Però ho rinunciato per il famoso amore della vita, e quindi me ne sono ritornata a casa e poi basta, mi sono sposata e adesso ho i miei 2 figli. Ah, ok, adesso che cosa fai? Continui a fare biotecnologie oppure... No, adesso mi sono riscritta di nuovo all'università, devo dire, però su tutto un altro campo. Per studiare cosa? Giurisprudenza. Ma per conoscenza, cioè per cultura, oppure perché vuoi... fare l'avvocato? Ma no, anche per lavoro, nel senso che dove lavoro adesso, che è comunque sempre nel settore della chimica, ho a che fare con tante normative, quindi per capirci un pochino, perché veramente ho capito, ho capito. Lara, ti ringrazio molto, in bocca al lupo. Grazie a te, Marco. Ciao. Ciao, buona giornata. Ho la sensazione che arrivino tante donne, perché alla fine quelle che rinunciano è sempre la solita storia. Lavoro, amore, sono sempre loro. Claudian da Rimini, ce la facciamo. Pronto? Ciao, Matteo. Ciao, Claudian. Che nome è il tuo? Di dove sei? Dell'Albania. Dell'Albania. Ha un significato il tuo nome oppure? Ma no, tradotto in italiano sarebbe Claudio. Claudio. Claudio, ok, perfetto. Tu da quanto sei qua? Io sono da 11 anni ormai, quasi, fra un po'. Quindi immagino che la tua rinuncia abbia a che fare con casa tua e con le persone che hai lasciato là? Sì, sì, poi dopo ci siamo ricongiunti tutti qua. Ma la rinuncia, diciamo, più grande è stata quando lasciai la scuola, che facevo il secondo anno della superiore. E sei venuto di qua? No, prima andai in Grecia, dopodiché arrivai qui in Italia. Insomma. Senti, Claudia, toglimi una curiosità. So che può sembrare una stupidità, però sono sempre molto affascinato dal viaggio che le persone che sono arrivate in Italia hanno fatto. Tu come ci sei arrivato? In treno, in macchina, in nave? No, purtroppo io arrivai in abusivo e di conseguenza in modo illegale. Ma come? Fisicamente come? Col peschereccio. Ma nascosto nel peschereccio? Nascosto sotto nei fondali del peschereccio, in un buco, insomma. E quanto durò il viaggio, scusami Claudia? Durò abbastanza, perché per uscire al porto abbiamo aspettato che facesse buio, insomma. Immagino. Senti, cosa fai adesso? Io ho una piccola impresa edile. E come vanno le cose? C'è un po' di fermo, però mi arrangio ancora. Ma Barisoni perché... dice che migliorerà, Claudian. Barisoni dice che migliorerà. Ma io l'ascolto tutti i giorni, adesso è proprio come... quindi tu le tasse le paghi, sei a posto, sei tranquillo. Sì, no, perlomeno quelle sì. Ti ringrazio. Ti ringrazio molto. Prego, grazie. Buona giornata. Ciao Claudia. Devo chiudere, però prima di farlo voglio leggervi una mail che è arrivata e che ha a che fare con la rinuncia con la L maiuscola. Caro Matteo, sono una persona passionale. Quando mi innamoro ne resto totalmente coinvolta, appunto che il mio cuore ha il sopravvento sulla razionalità. Ho avuto pochi amori veri nella mia vita. Uno è rappresentato di sicuro da mio marito e dai miei figli. Uno è stato per l'altro. Dico è stato perché ci ho rinunciato. E l'ho fatto dopo notti, insonni, molti pianti e sensi di colpa. Ma alla fin fine, cosa si può fare se le cose capitano? Come contrastare qualcosa di non cercato e non voluto, che forse proprio per questo appare maledettamente invitante e desiderabile? Come farlo? Comunque, ho rinunciato. E l'ho fatto perché dentro di me sapevo che non poteva essere quella la mia vita. Sapevo che la mia vita è con la mia famiglia, che ho costruito insieme a mio marito e ai miei figli. Lui invece sarebbe stato qualcosa di stonato, di non armonico. No, non ho decisamente rimpianti. Non so se vorrai leggere questa lettera, ma se lo vorrai fare, potrei rimanere anonima? Grazie. Prego, grazie a te, grazie a Viola Bottoni, a Paolino Corleoni e a Tiziano Bonini. C'è il fine settimana, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?